nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 1 maggio, il sole in regione sorto alle 5.55, tramonterà alle 20.15, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Alessandra Zigaina. Storia e declino della coltivazione del mais in regione. Questo l'approfondimento di oggi per Vita nei Campi, che continua con l'analisi del settore cerealicolo. A seguire le storie di Angelo Floramo, che indaga sull'ICOF, usanza dall'etimo incerto ma con legami profondi nella società contadina. In arrivo i primi contributi del PNRR destinati alla creazione dei parchi agrisolari, con una serie ben precisa di limitazioni. Continua la carrellata poi sulle piante da frutto che si possono far crescere anche in regione. Oggi è la volta del corbezzolo e per lo spazio che dedichiamo agli alberi le buone prassi per gli abbattimenti. A seguire piccolo spazio dedicato a noi, alla pubblicazione del volume Mamma Moia di Lucia Pertoldi, che raccoglie gli interventi di cucina per la nostra trasmissione negli anni 2013-2017, volume che si presenta sabato alla Fondazione Claricini Dornpacher di Bottecnico di Moimacco. A seguire andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Con il tecnico dell'ERSA Thomas Lazzarin, nel primo approfondimento dedicato alla cerealicoltura avevamo cominciato a inquadrare il mais, la sua estensione e quanto abbia contato nell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Ora però da qualche tempo ci si sta interrogando, soprattutto per quanto riguarda il mais. Conviene ancora? Sicuramente il comparto agricolo regionale, ma anche nazionale e internazionale, sta attraversando uno dei momenti più incerti degli ultimi anni. Ci sono diverse questioni da analizzare. Il primo, veniamo da 2 anni di pandemia che hanno rallentato i mercati e le commercializzazioni, creando aumenti di prezzo per mancanza di materie prime e costi dei trasporti. Oltretutto, le ultime stagioni agrarie si sono dimostrate altamente imprevedibili, con ampi periodi siccitosi, per esempio la primavera del 2020, giugno-luglio del 2021, anche da dicembre fino a marzo di quest'anno nel 2022 ha piovuto poco. E poi ci sono violente precipitazioni. Questo fa sì che l'agricoltore sia costretto a diventare un indovino, perché basta anticipare o posticipare di una settimana la semina o il raccolto per passare da una stagione positiva o negativa. E questo accade molto più frequentemente rispetto ai decenni precedenti. Quindi i cambiamenti climatici sono un grosso limite per le coltivazioni e chi lavora nel settore fa fatica a rispondere ad essi. Ultimamente, per esempio, si è stati costretti a irrigare anche i cereali autunno-vernini, qualcosa che era impensabile in passato. Il mais è una coltura altamente energivora. Richiede che l'agricoltore sia in campo molto spesso per irrigazione, per le concimazioni, per i lavori che ci stanno dietro. Questo fa sì che ormai il ritorno economico sia piuttosto limitato. A questo punto crea il problema della diminuzione delle superfici a mais in regione, che sono sostituite dalla soia, per esempio, che ha bisogno di meno input, o anche da nuove coltivazioni. Potrebbero dare delle soddisfazioni il sorgo, per esempio, perché ha bisogno di meno lavorazioni e quando ha avuto il suo sviluppo può essere tranquillamente lasciato più in pace rispetto al mais, perché non ha bisogno di tutta quell'acqua che il mais necessita. Diciamo che l'ultimo anno, il 2021, ha attutito questi problemi perché l'aumento dei prezzi è stato anormale. Ci sono stati degli aumenti del 40% rispetto a quello che era l'anno precedente. Però adesso la situazione internazionale peserà molto sulle colture di quest'anno. I prezzi dei concimi sono schizzati alle stelle, i prezzi del carburante sono aumentati tantissimo, oltre a quello che si poteva pensare, e adesso gli agricoltori sono in difficoltà, non sanno realmente cosa coltivare, perché devono decidere se acquistare dei concimi, se acquistare il gasolio che viene dato anche non completamente, e quindi alcuni che hanno l'allevamento saranno costretti a piantare del mais, ma gli altri punteranno a colture meno impegnative, il sorgo in particolare. Il settore cerealicolo in regione ha sempre patito una critica economica. Sì, siamo dei bravissimi coltivatori di mais in primo, però non siamo capaci di sfruttare il suo valore aggiunto che, tra virgolette, regaliamo alle altre regioni che lo trasformano e ce lo riportano sotto forma di mangimi o quant'altro. È ancora così? Sì, purtroppo è così. Noi siamo una regione molto brava a coltivare, facciamo degli ottimi prodotti, ma non sappiamo valorizzarli. Questo non solo nel settore maidicolo, ma in tutta una serie di settori, compreso quello viticolo. Il mais è tra le colture che purtroppo soffrono di questa nostra incapacità di valorizzare noi stessi, anche con i mais locali. Likov, una parola dall'etimo incerto che evoca una serie di corrispondenze ataviche nel mondo contadino e non solo, come ci spiega oggi nella sua storia Angelo Floramo. C'è una parola nella lingua friulana che ha un sapore antichissimo e un significato quasi intraducibile, Likov. La sua origine è secondo alcuni slava. Ancora oggi Likov nella lingua slovena designa la festa del raccolto, la conclusione dei lavori agricoli che viene celebrata dalla comunità attraverso il rituale collettivo in cui mangiare e bere, esageratamente, fanno parte della tradizione. La parola ha anche assonanze più antiche, deriva infatti dal greco lykos, il lupo, e sta a indicare i luoghi selvatici, abitati da quegli spiriti che sfuggono al controllo dell'umano. Uno spazio ferino, dunque, esterno alla comunità del villaggio, in cui il cibo viene raccolto nei terreni incolti oppure cacciato, ma comunque divorato crudo. È interessante a tale proposito l'ambiguità, l'ambivalenza che si nascondono in questo nodo misterioso. Oggi i friulani fanno Likov quando finiscono di costruire una casa. L'ultima tegola viene sistemata sul tetto e si innalza proprio sulla cimasa un ramo verdeggiante, una frasca, meglio se un fusto di pino sempreverde. È la bandiera sacrale, il vessillo che indica la conclusione di una fatica collettiva. Nessuno costruisce la casa da solo. Lavora a erivada in somp, tra il spich dal colm e il cil, il spich dal pech. Il lavoro è giunto a compimento tra il colmo del tetto e il cielo, la punta dell'abete, un segno che invita tutti a bagnarla secondo le liturgie di una libagione che, con ogni evidenza, sottende fortissime suggestioni rituali. Il sempreverde non è solamente un segno di buon auspicio, di vita perenne, di solidità e fermezza. Spesso viene sostituito da un ramo di quercia, pianta nota per la sua robustezza, o di alloro, segno di sapienza. Ma è anche un omaggio allo spirito della foresta, a quella lica cui l'umano ha sottratto spazio per erigere la propria dimora. Ricorda da vicino altri pali rituali, come quello della cuccagna o l'albero della maia, l'antico calendimaggio, ancora fortemente sentito nelle comunità della Val Canale, specialmente a Camporosso. Si tratta di colonne rituali che uniscono cielo e terra, natura e cultura, villaggio e foresta. Pali viventi, arborei, ritualizzati sempre nei contesti della festa. Altri fanno derivare la parola da Winkauf, ed entrata nella lingua tedesca come Leikauf, indicava bevande fermentate capaci di dare l'ebbrezza, prima del vino, più verosimilmente sidro, di mele o di pere che fosse, acquistate appositamente per suggellare un patto, consacrandolo nel tempo, senza tempo, della festa. C'è grande attesa per l'apertura dei bandi sui parchi agrisolari previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Facciamo il punto assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del primo vero intervento economico del PNRR destinato alle imprese agricole, per il quale il governo ha destinato 1,5 miliardi di euro. Una cifra mai vista prima, finalizzata a incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici, si badi bene, non a terra, bensì sulle coperture di fabbricati agricoli, siano essi stalle, cantine, depositi attrezzi, agriturismi o altri locali strumentali dell'impresa. Il decreto ministeriale è stato firmato lo scorso 25 marzo ed è stato notificato a Bruxelles per le verifiche di rito in materia di aiuti di Stato. Se, come tutti speriamo, non ci saranno osservazioni, entro l'estate si apriranno i bandi. Quali sono gli interventi finanziati? L'intervento trainante è l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa fra i 6 e i 500 kW con relativa impiantistica, ai quali però si possono aggiungere interventi trainati che riguardano la rimozione e lo smaltimento eventualmente dell'amianto dalle coperture, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti, la realizzazione di sistemi di areazione con essi alla sostituzione del tetto o di sistemi di accumulo e ricarica per i mezzi elettrici. Naturalmente ci sono limiti tecnici di spesa che non è facile riassumere e che devono essere valutati caso per caso. Per le imprese di produzione primaria che non fanno alcuna trasformazione, il contributo potrà interessare solo impianti fotovoltaici con capacità produttiva che non eccede il consumo medio annuo dell'azienda e della famiglia. A quanto ammonta poi il contributo? Dipende dalla tipologia di impresa. Per le imprese di produzione primaria il contributo è pari al 40%, al quale si può aggiungere un ulteriore 20% se sono condotte da giovani o se sono situate in zone svantaggiate. Per le imprese che trasformano il contributo è invece fissato al 40% senza ulteriori aliquote addizionali. C'è il caso di imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli, per le quali l'intensità di aiuto è più ridotta, ma questi sono casi residuali. Quindi non resta che aspettare i bandi. Sì, la domanda di contributo dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato. Sappiamo bene che in questi tempi è difficile trovare imprese, materiali e anche professionisti, e siccome gli interventi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto, il consiglio agli interessati è quello di cominciare a muoversi con largo anticipo. Il professor Raffaele Testolin continua nella sua carrellata delle piante da frutto che si possono far crescere anche da noi. Oggi è la volta del corbezzolo. Dopo aver raccontato come coltivare molte piante da frutto, ho ormai esaurito gli argomenti. Tuttavia, alcune specie minori, ma non meno simpatiche, ve le voglio descrivere. Non interessano, almeno da noi, per una frutticoltura professionale, ma certamente possono rallegrare con i loro colori i nostri giardini. Una di queste specie è il corbezzolo, una pianta tipica della macchia mediterranea con cui le api producono un miele che ha pochi rivali al mondo. A confronto con il miele di corbezzolo, anche il miele di manuka, il costosissimo miele neozelandese, deve cedere il passo. Gli apicoltori sardi dell'Oristanese, poi, producono con il miele di corbezzolo e le loro mandorle un torrone che meriterebbe l'Oscar. Non ha eguali al mondo, provare per credere. Ma torniamo al corbezzolo, pianta bellissima per il fogliame sempreverde che a causa della prolungata fioritura durante tutto il periodo estivo presenta sulla pianta fiori e frutti contemporaneamente. Si può mangiare direttamente dalla pianta frutti maturi per qualche mese e, se l'autunno è mite, possiamo godere dei frutti fino a Natale. Se poi guardiamo la pianta con quelle foglie di colore verde brillante, i fiori bianchi e i frutti rossi, beh, il pensiero alla nostra bandiera è immediato. È un bel arbusto che può essere mantenuto delle dimensioni che si vuole con appropriate e semplici potature. Cresce da solo, come ho detto di altre specie, sapendo di fare la gioia di molti ascoltatori. Non ha bisogno di niente, non si ammala e se vi dimenticate di innaffiarlo non se la prende. A partire dall'estrate inoltrata matura i frutti, resiste anche al freddo invernale e quindi ben venga anche nei nostri giardini. Dimenticavo, quando potate non buttate il legno, fatelo asciugare e poi usatelo come legna per le grigliate. Vi ricordate Lucia Pertoldi che per 4 anni, dal 2013 al 2017, ha curato la rubrica dell'enogastronomia nella nostra trasmissione. Bene, Lucia Pertoldi, dopo 8 anni si è decisa finalmente a dare alle stampe questi suoi interventi. È pronto il libro, edito dalla Filologica Friulana, con il titolo Mamma Moia, Mamma Mia, 100 ricette spuiune, la cucina di ieri e di oggi per la trasmissione Vita nei Campi. Come mai tutto questo tempo, Lucia, per pubblicare? Tanto tempo, lo riconosco, però non c'era la mia volontà, non c'era la convinzione di farlo, proprio perché tutti questi interventi, tutti questi corsivi nascevano di settimana in settimana. Però alla fine ho visto, su sollecitazione di Armando Mucchino, ho visto proprio che c'era un filo logico. E l'ho intravisto solo verso la fine, e questo filo era proprio la cucina di casa. Tocca a me dirlo, c'è un filo, come ha appena detto Lucia, è quello della cucina di casa, quello della cucina della tradizione, le ricette che le mamme, le nonne, le zie custodivano nel libretto che tenevano nel cassetto dell'armadio, e proprio è lì che è andata ad attingere Lucia per fare questo spaccato della cucina popolare, ma non sempre popolare, la cucina che è nata nelle case e nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Qual è la principale difficoltà? Ma la difficoltà era proprio mettere nero su bianco anche i ricordi di queste ricette, perché non sempre queste ricette erano scritte, bensì erano tramandate oralmente, come è tipico proprio di un certo tipo di cucina tradizionale. E quindi non è stato facile. Per me ogni corsivo, ogni ricetta era proprio, lo riconosco, un parto. Il libro verrà presentato sabato alle 10 alla Fondazione Claricini Don Packer di Bottenico di Moimaco. Ci sarà anche l'autrice. Come si abbatte un albero? Ce lo dice il dottor Aldo Cavani, che cura assieme ai suoi colleghi Roberto Barocchi e Giorgio Valvason questa rubrica che abbiamo dedicato agli alberi. Quindi, se devo abbattere un albero, da dove inizio? Dipende essenzialmente dove l'albero è. Se noi pensiamo ad un albero posto in un giardino, in un cortile, fra le case o vicino a strutture tipo antenne, fili della corrente o del telefono, eccetera, le cose sono diverse da abbattere un albero nel bosco. In questo caso sarà necessario chiamare un'autoscala e procedere a una demolizione controllata dall'alto, riducendo le dimensioni della pianta per non fare danni. Se invece abbiamo un albero nel bosco, è possibile scegliere direttamente la direzione di caduta, cioè che non vada a fare danni su altre piante, sulla rinnovazione o sul trattore, per dire, stesso del boscaiolo, e una volta individuata la direzione di caduta si procede facendo un'attacca, cioè un taglio di direzione, che crea di fatto sulla sezione dell'albero una sorta di cerniera sulla quale la pianta ruoterà. Poi importante è capire se la pianta è dritta, se pende dalla parte dove voglio abbatterla o addirittura pende dalla parte opposta. Se dovesse pendere dalla parte opposta, l'unica è tirantare l'albero con un trattore, con un tirfore, eccetera, e tenerlo costantemente in tensione. Altrimenti, un po' più in alto di questa tacca, si procede con la motosega a effettuare il taglio, inserendo dei cunei e battendoli con una mazza in modo tale che la motosega non resti schiacciata sotto il tronco, e anche favorendo l'inclinazione progressiva della pianta nella direzione di caduta. A parole facile, da fare non è uno scherzo e andrebbe riservato a persone che hanno una certa formazione, una certa dimestichezza con la motosega, che non è uno strumento proprio alla portata di tutti. Esistono delle attrezzature di sicurezza, calzoni antitaglio, scarpe antitaglio, guanti, oltre ovviamente a cuffie per il rumore, casco, visiera, perché, e comunque andrebbe fatto da persone esperte. Ecco, l'esperienza è fondamentale. Certo. E ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo con prezzi in leggero rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 35,80 e 36,30 euro il quintale IVA esclusa, l'orzo peso specifico 62,65 tra 35,90 e 36,20, il frumento tra 38,40 e 38,70 e la soia tra 68,90 e 69,40. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 11,30 euro e la soia di 10,90 euro il quintale. Buone contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in leggera discesa. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,20 e 1,40 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine tra 1,20 e 1,50, le melanzane tonde tra 1,40 e 1,50, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,80 e 2,20, i cetrioli 1,30 e 1,60, i pomodori in grappolo tra 2,50 e 2,80, la scalola riccia da 2,80 a 3 euro, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso da 3 a 3,30, gli asparagi bianchi da 4 a 5 euro, le patate novelle a 1,10 e 1,20, le arance tarocco tra 1,40 e 2,40 e le fragole dai 3 ai 4 euro al chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, il prodotto pescato aumenta e i prezzi sono leggermente in calo. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 20 a 31 euro il chilo IVA esclusa, le sogliole da 8 a 25, le canocce da 5 a 16, le orate da 10 a 20, le passere da 10 a 16, i gamberi da 15 a 20, le anguille da 19 a 22, le capesante da 12 a 15, le seppie da 7 a 10 e i moscardini da 8 a 18. Scambi molto attivi nel settore dei prodotti caseari, con quotazioni in aumento. Il montaggio di 90 giorni viene pagato tra 7 e 7,30 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 8-8 e 30, lo stagionato 12-15 mesi da 8,40 a 8,80. Miglioramento anche del prezzo del latte crudo di vacca, Franco Stalla, di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la Commissione Camerale di Pordenone Udine giovedì scorso lo ha quotato tra 0,46 e 0,48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. La situazione meteorologica che apre la settimana entrante sarà caratterizzata dall'attivazione di una vasta, quanto blanda, area depressionaria sul Mediterraneo, da ovest a est, che al momento non sembra consentire la formazione o il passaggio sulla regione di fronti ben definiti, quanto piuttosto l'instaurazione di una certa variabilità, che sconfinerà talora nell'instabilità atmosferica. Ecco che tra domani e mercoledì le nubi interesseranno prevalentemente la zona montana, mentre su pianure costa le schiarite si alterneranno a nuvolamenti, specie pomeridiani, capaci di produrre qualche temporale. Le temperature si manterranno stabili su valori miti di giorno, oltre i 20 gradi in pianura, intorno a questo valore sulla costa. I venti saranno inizialmente orientali, deboli o moderati, poi a regime di brezza. Giovedì il cielo vedrà qualche nube in più, così come maggiori saranno le occasioni di qualche precipitazione. Temperature stazionarie e un lieve calo le massime. Venerdì potrebbe avvicinarsi una più profonda saccatura atlantica da ovest, capace di orientare il flusso in quota da sud-ovest, e portando nuovamente un fronte verso la regione, con piogge anche abbondanti e un lieve calo termico. Nel prossimo fine settimana l'evoluzione appare ancora incerta, potrebbero esserci ancora gli effetti della saccatura con precipitazioni sparse. In ogni caso raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Sal pluf il prim di mai, blave non si fai, ovvero se piove il primo maggio, mais non se ne farà. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Alessandra Zigaina e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.